140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Anno da record per i Santa Margaret tra premi, grandi live e l'album Il suono analogico cova la sua vendetta. Angelica Schiatti e Stefano Verderi. Ci sono delle sorprese che a volte sono un po' annunciate, no? Cioè che è una sorpresa però bene o male lo sai, te lo aspetti. E invece ci sono delle sorprese che poi sono quelle vere, quelle belle che proprio non ti aspetti. E tutto questo anno quasi e mezzo di lavoro è stato totalmente inaspettato, cioè, sia per noi sia per chi lavora con noi. Effettivamente sono stati raggiunti degli obiettivi davvero in maniera inaspettata, sì, e spontanea. È stato appunto per fortuna un anno di lavoro premiato, ecco, quindi fa piacere perché appunto ti dà lo stimolo per continuare a fare meglio. Poi ovviamente valgono poi per tutti gli anni non premiati. Ah certo, perché non si comincia dal nulla, peraltro voi vi conoscevate anche da tempo, quindi certo. La sperimentazione musicale era nata da un prima. Po'. Allora, intanto vabbè, moltissimi live. Sì, è da ottobre che siamo in giro. Tra l'altro, ovviamente, ad oggi, essendo comunque una band super emergente, dobbiamo prendere un po' tutto, no? Per cui abbiamo fatto questo tour da partire appunto da ottobre, però senza nessuna logica geografica, no? Quindi abbiamo fatto veramente chilometri su e giù senza nessun nesso tra una data e l'altra. Ma ci sta, cioè, alla vecchia, capito? Alla vecchia. E le Zeppelin facevano un disco e poi facevano 100 date, perché poi non avevano non avevano altro modo per promuovere il disco, insomma. Invece adesso non c'è altro modo per mantenersi, perché ci si mantiene con i live. Un po' quello, ma in realtà anche un po' che si è tornati in quel mondo lì, perché alla fine, adesso senza nessuna polemica, ma gli spazi mancano un po' rispetto a qualche anno fa. Soffro di un complesso. Quasi non esiste più l'album tra ragazzi che ascoltano le canzoni su Spotify, Deezer, quel che è, in shuffle, ascoltano un brano, poi ne ascoltano un altro. Invece voi avete preso questa scelta, di cui avete dovuto raccontare Marie Monti in tutte le interviste, del supporto analogico, del vinile, sì. Anche dal titolo, Il suono analogico cova la sua vendetta. È più una scelta di supporto o una scelta di proposta di fruizione della musica? Entrambe. Esatto. Perché, nel senso, noi abbiamo voluto fortemente registrare questo disco in analogico, quindi su nastro, e quindi poi la naturale conseguenza era stampare dei vinili. Noi per primi, che siamo dei grandi fruitori di musica, non acquistiamo più CD, acquistiamo solo vinili o ascoltiamo tutti i vari servizi di streaming. Quindi questo è un po' sia un discorso timbrico per quello che riguarda proprio il nostro modo di fare musica, che ripeto è semplicemente una scelta timbrica, stilistica, cioè voler registrare su nastro piuttosto che in digitale è proprio una scelta di gusto, se vuoi, non si può dire è meglio o è peggio. E poi anche, esatto, è un consiglio piuttosto, anzi è più un'osservazione che noi facciamo di questa realtà discografica e musicale in questo momento in Italia, ma anche nel mondo, del fatto che il vinile sta tornando, cioè il supporto analogico è un qualcosa che sta crescendo piano piano, anzi in realtà molto, però vabbè, le percentuali ovviamente sono, di mercato sono ancora piccole. E quindi in qualche modo anche noi diamo un po' il consiglio dello chef di dire: ascoltate la nostra musica in generale, ascoltate la musica in vinile che ha più gusto. Troppe volte i sogni restano all'ombra della sera, ma il rimorso li consuma e non ritornano più al risveglio. Chiudo gli occhi e i miei sogni. Se doveste scegliere un sogno da urlare? Io vorrei essere un po' più riappacificata con tutto il mondo, proprio perché insomma è bello, no? Poi dopo si crea un'energia molto più bella, piuttosto che arrampicare per forza di cose con la forza. La seguo a ruote in questo senso, anche se mi verrebbe voglia di dirle: guarda che in realtà non sarà mai così, perché il coltello tra i denti lo devi avere sempre comunque. Però sì, poter fare il musicista nel 2015 è già un bellissimo sogno. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con i Santa Margaret. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.